Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono in una città particolarmente affascinante, Piacenza, nell'Emilia. Questa città è ricchissima di monumenti medievali e in particolare anche di monumenti rinascimentali, quindi è una città da scoprire, e tra le cose bellissime da scoprire ci sono le sue chiese rinascimentali, in particolare la chiesa di San Sisto, dove io mi trovo. È una chiesa straordinaria, venne inaugurata nel 1514 e sostanzialmente è intatta. Venne realizzata dal più grande architetto piacentino del tempio, Alessio Tramello, che realizzò anche altre chiese nella città, chiese monumentali e bellissime. Ma qui si viene per un motivo molto particolare. In fondo alla chiesa c'è una colossale cornice barocca, dorata e intagliata, che racchiude un quadro a noi particolarmente, familiare. È la Madonna Sistina di Raffaello Sanzio, cioè la Madonna con quei famosi angioletti che ci sono alla base, che guardano per aria con le braccia a conserte. In realtà qui siamo davanti, ahimè, a una copia. La vera Madonna Sistina si trova a Dresda e i monaci di San Sisto la vendettero a metà del Settecento a una cifra altissima, stavano andando in rovina, poveri monaci, a uno dei più grandi collezionisti del tempo, l'elettore di Sassonia, Augusto. E quindi quest'opera da Piacenza fece un viaggio a dir poco rocambolesco per arrivare naturalmente nella nuova destinazione di Piacenza. Che viaggio fece? Beh, immaginate, tra l'altro in pieno inverno, con un carro venne portato ad Esenzano, all'inizio del lago di Garda. Questa pala venne caricata sulla barca, perché era molto più semplice andare con via acqua e non con le strade, che non erano particolarmente facili da percorrere. Venne portata in cima al lago, a Torbole, proprio in cima al lago di Garda, risalì sul suo carro e arrivò tra le tempeste di neve fino a Dresda. Quando arrivò a Dresda, il re Augusto di Sassonia si racconta che spostò il trono e fece collocare la pala dicendo: fate largo al grande Raffaello.